E allora di nuovo dal corteo, al telefono con una compagna, pronto? Pronto, ciao a tutti e tutte. Allora, chiamavamo te perché abbiamo fatto un po' l'introduzione su una città deserta che vi ha accolto e insomma su un po' sulla rabbia che c'è nel corteo di oggi. Non so se tu ci vuoi raccontare un po' la composizione del corteo. Allora, il corteo è partito almeno da mezz'ora. Siamo veramente tanti oggi a Cremona, arrivati da tutta Italia. In realtà appunto la città sembrava deserta, ma durante il corteo abbiamo visto come la gente si è fatta dai balconi della città e comunque non rimane indifferente a quello che è successo qualche giorno fa qui a Cremona. Si trovano di fronte comunque a un corteo molto grosso, anche penso per la città di Cremona, e siamo veramente veramente tanti, inaspettati insomma come numeri. Siamo insomma su una via molto grossa in questo momento, abbiamo passato Piazza della Libertà e continuiamo il corteo. La composizione, ci sono tutte le città, quindi diciamo che un po' rappresenta insomma le varie città che sono venute qui a Cremona. In questo momento ci sono appunto i compagni davanti che parlano e raccontano un po' alla città quello che è successo nei giorni scorsi, anche cercando di bugiardare quello che ci sta scritto insomma sui giornali da un po' di tempo, da quando appunto è successo il fatto. È anche un corteo molto vivo, nel senso che tutti quanti cantano a squarciagola, esprimono la loro solidarietà nei confronti di Emilio, che sta ancora in ospedale e le sue condizioni comunque, anche se sono stabili, possiamo dire insomma che sono buonissime. Quindi era dovuto insomma questa presenza di oggi a Cremona, e tutta Italia ha dimostrato in modo grande insomma la propria solidarietà. Ci sono appunto, come vi dicevo prima, le città quasi da tutta Italia, non solo insomma le città più vicine o del nord Italia, ma ci sono anche i compagni e le compagne delle città del sud e ovviamente anche la nostra, quella di Roma. E quindi insomma questo è un po' la situazione fino ad ora. Come vi dicevo, è partito da circa una mezz'ora il corteo, quindi va molto lento perché cerca di comunicare il più possibile, la gente canta molto, e quindi è un bel corteo, un corteo molto sentito, e penso che durerà ancora tanto. Abbiamo solo appunto dalla partenza passato Piazza della Libertà, adesso siamo su questo grande vialone appunto qui nella città di Cremona. Per il momento insomma è tutto. Vabbè, un corteo quindi che sembra quasi volersi riprendere la città di nuovo, delegittimare chi non ha spazio per questa infamità e tornare a prendersi una Cremona deserta che allora riempiamo noi, no? Mi sembra tutto, esatto. Mi sembra molto bello, pieno veramente di solidarietà, ma anche insomma di energia, di convinzione. Leggevo adesso, vedevo la foto dello striscione di Milano, a me ogni tanto pure, ecco, non è che io sono sia umana, mi si strizza un po' il cuore. Emilio, resisti, al nostro posto ci troverai, e credo che oggi veramente insieme alle parole dei compagni di Milano possiamo dire che siamo al nostro posto, abbiamo riempito una città che è stata terrorizzata non solo dai fascisti ma anche da chi in questa settimana poi ha cercato veramente di chiudere a casa la gente, di allontanarla, di spaventarla molto più invece che di far sì che possa esprimere la propria rabbia anche solo confrontandosi, incazzandosi e scendendo in piazza. Va bene, sì, allora esatto. Dimmi. Va bene, sì, ok. Allora grazie. Ci aggiorniamo così, casomai ci sentiamo più tardi, ti lascio al corteo, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Correspondiente al día de hoy, primero de abril.